24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Questa settimana iniziamo così. 100 da ok, il prezzo è giusto, è la settimana numero 100 per la riforma elettorale, settimana decisiva ovviamente, per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. 100 Lei ha detto che il suo vino va a Ruba. Ci sono molte cooperative tra i suoi clienti? Ci sono molti cittadini che lo comprano, moltissimi. I tuoi baci come il vino fanno dire al mio cuor. Vino e bacio ancora. Noi abbiamo venduto dei vini alla cooperativa CPL, è vero, e non è un reato. Restiamo un po' a sognare. I tuoi baci così dolci fanno cantare al mio cuor. Vino e bacio ancora. Qualcuno ha ritenuto inopportuno unire l'immagine di una convention del PD, del Partito Democratico, così elevata, con una vendita. Diciamo, quegli acquisti sono avvenuti nel corso di 2 anni, non in una convention del PD. Lei dice delle cose sciocche. Quindi la pregherei, siccome sto denunciando oggi diversi giornali, denuncio anche lei con l'occasione. Lei ha detto che ho venduto il vino durante una convention del PD, eh? Come si chiama lei, scusi? Devo trasmettere al mio avvocato questa informazione. La prego di mandare questa registrazione, avrà una denuncia. Quei baci come il vino fanno dire al mio cuor. Il migliore è Iena oggi sulla stampa. Ieri ho incontrato D'Alema e l'ho invitato a bere un bicchiere di vino. Mi ha querelato. Sotto un albero restiamo un po' a sognare. È nervosetto, nervosetto D'Alema. Io lo capisco, perché non indagato, cioè, guardate oggi i giornali, ci sono delle pagine sull'inchiesta, ma arrivano dopo le pagine su D'Alema, il vino. Repubblica addirittura va a raccontare la tenuta di D'Alema a Terni, la Madeleine si chiama così, e vengono accolti da Aiace, cane molto buono, dice D'Alema, ma se fiuta il pericolo può uccidere. Aiace, questo è il cane che abbaia alla tenuta, la Madeleine. E c'è la moglie tra l'altro, che dice: guardate, abbiamo avuto un'impennata di ordini di vini in questi giorni, ex malo bonus. E D'Alema querela. Poi, per la verità, D'Alema pare abbia chiesto scusa, ha detto ha avuto una reazione così all'inviato di virus, gli ha detto: lei associa una convention del PD con la querelo. Querela tutti. Quindi state attenti anche voi, care mie ospiti del Parlamento, a cominciare dalla nostra Aurora. La nostra Aurora. Eccola qua. Ah, buongiorno a te, buongiorno. Milan, e come sempre un caro saluto ai tanti amici di Radio 24. Certo. Stai attenta, che querela baffino querela. O di negot. Bisogna di negot. Ecco. Che per tutto il mondo vuol dire non ho ancora detto niente. Ogni abufat, cioè non questa... neanche detto niente. Scusa, questa com'è? Me la ripeti? Ogni abufat. Cioè non ho neanche detto... È così un po' onomatopeico, in effetti, buffli di insomma di lì. Non ho neanche sbuffato, ecco. Esatto. Ecco, vedi che potresti darmi delle lezioni di bergamasco stretto. Ma il bergamasco... Ma anche tante altre. Vabbè, no, vabbè, io chiamo subito in causa un aiuto, è Veronica. Eccola, Gentili, bravo. Veronica, buongiorno. Buongiorno, la situazione si fa calda già in partenza. Non lo so. Anche se io non ho una voce impostata come vedi tu, Veronica, io... non so, sono questa eredità anche la mattina. Che ti devo dire, mi può dare tante lezioni Aurora Lussana. Noi ce la mettiamo in tasca questa cosa, ce la teniamo così. Ma sul calcio cosa hai capito? Prendi e porta a casa, si dice. Esatto, prendi e porta a casa e la elaboreremo dopo al caffè, al bar, discutendole con l'alpino Peter Bescapè, con il nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Parleremo di questa, non so. Lorenzo, secondo te cosa voleva dire Aurora, che mi può dare lezioni su tante cose? Non lo so, vabbè, ne discuteremo dopo, davanti a un cappuccio anche. Eccola. Sai che questa è la colonna sonora di Aurora Lussana. Vabbè, che dobbiamo fare? Va bene, dai. Che bei tempi. Allora, che bei tempi ancora. Ma Veronica, vuoi dire qualcosa a Aurora Lussana, che vive il matrimonio come la... Non è anche la tomba dell'amore, proprio la tomba di tutto. La tomba. Ma io già le ho detto l'altra volta che secondo me ha ragione. Te l'ho detto. Molto bene, molto bene. Aurora, ma perché ti sposi, infatti? Perché la prima pagina della Bibbia ci riporta all'amore fra un uomo e una donna. Okay. Bisogna sposarsi per questo. No, vedi, sottovaluta del pensiero cristiano, giudaico-cristiano, in fatto di sessualità, di amore fra uomo e donna. Tu, Veronica, lo sottovaluti? No, io non lo sottovaluto, però dico, se è un calvario, a un certo punto uno dice, dai, vabbè. Ma ragazzi... è un calvario adesso, ma dopo il calvario c'è la salvezza, ragazzi, c'è la resurrezione, su che domani è venerdì santo. Effettivamente, ci avviciniamo alla Pasqua, c'è un'Aurora Lussana un po' ecumenica, mettiamola così. Sì. Allora, comunque, siamo con Aurora Lussana, avete capito? Siamo con Veronica Gentili, del Fatto Quotidiano, che anche... Anche questa, se voi andate su Twitter, la trovate così, come pensatrice. Che bello, pensatrice. Ti piace? È bello. Perché sembra un ossimoro, capito? Allora. Capito. Bello. Pensatrice, Veronica Gentili. Vabbè, apriamo il Parlamento in questa centesima settimana decisiva per la riforma elettorale. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, c'è anche la nostra ministra Maria Elena Boschi e... Che c'hai da sbuffare subito, Lussana? La regina Elena. Sì, a proposito di... Beh no, poi arriviamo alla questione del rimpasto. Però vorrei iniziare da D'Alema. Intanto, subito, se avete comprato del vino di D'Alema, è il momento di autodenunciarvi. Veronica, tu hai mai assaggiato o comprato qualche bottiglia? No, però secondo me è il momento per farlo, come dice la moglie, per cercare di dargli un po' di sostegno al povero Massimino. Quindi adesso andiamo tutti a ordinare il vino di D'Alema. Esatto. Si può fare. Poi adesso c'è il dibattito se sia un vino buono o non è neanche buono. Per De Luca è come era una zozzeria la questione del vino di D'Alema, non lo so, però effettivamente, ma tu non saresti un po' arrabbiata se fossi in D'Alema, Veronica? No, perché, a me fa pena, nel senso che al di là di tutto penso che quando uno esce dalla politica, più o meno, per quanto lui abbia ancora un enorme peso, dovrebbe cercare un po' di uscire in bellezza, invece purtroppo qui fatti relativamente personali, perché appunto non è indagato e reati non ce ne sono, fanno sì che cali una specie di sipario grigio anche su quelli che sono stati momenti di lustro. Ma io dico, lui ci mette il suo carico certamente di antipatia, e si sa, perché dire, però, lei mi dia i dati, li do all'avvocato. Ma lui già è così di suo, già ha questo temperamento, già è antipatico nei momenti in cui invece vorrebbe essere accomodante e bonario. Ti puoi immaginare uno che nell'animo ha lei non sa chi sono io, che cosa gli succede nel momento in cui diventa, è in cattività e è attaccato da tutti. Ma io sono d'accordo, però da questo punto di vista i giornalisti siamo anche un po' una razza di vendicativi, perché dai, c'è un po' di accadimento, c'è l'agonia mediatica. Voglio spezzare una lancia per D'Alema, mi offro il petto a tutte le critiche. Cara Aurora Lussana, tu non spezzeresti un po' la lancia per D'Alema, sebbene sia antipatico? No, fa bene, ma sai che pubblicità, no? Ci mancherebbe. Ma la pubblicità, ma secondo me non ne ha bisogno di vendere. No, nemmeno io lo credo. Ma buon per lui, ha fatto bene, ha sempre avuto i suoi amici di sinistra che lo sostengono, cooperative non, è un sistema così che va avanti da Tangentopoli ad oggi, solo che i tempi di Tangentopoli, ti ricordi, c'erano le cooperative che avevano la percentuale fissa, poi hanno detto no, ragionano per... ragioniamoci, hanno uno scopo sociale. Però Aurora, però oggi sui giornali la CPL Concordia e quell'intercettazione con Robin Hood Robertino che ha preso contatti con i leghisti in regione Lombardia. Vabbè, puoi chiamarli anche te i leghisti regione Lombardia. Ho capito, pubblico. Ma io non devo fare appalti, non devo fare io al massimo delle interviste. E come la mettiamo? Rapporti... Scusami, la roba lì di Melegnà, cos'è che uscita? Sì, un appalto a Melegnà. Eh sì, quella roba lì di Melegnà. Un appalto a Melegnà. Ma ci sono leghisti a Melegnano? No, io non ricordo. No, hanno preso contatti con la regione, i contatti con la regione. Questo ma secondo... con chi? Ma che ne so, c'è tale Robertino, Robin Hood soprannominato, che ha preso contatti con i leghisti, dicono due intercettati. Sì, ho visto. Da dove verrà il nome Robin Hood? Robin Hood, chissà perché l'hanno chiamato Robin Hood. Secondo no, Veronica, poi... questo Robertino. Comunque io saluto mia zia che fa il vino anche lei. Vabbè, ho capito, la zia della Lussana, sì, vabbè. No, effettivamente è un tema molto interessante. Secondo te, Veronica, questo soprannome Robin Hood, questo Robertino, cosa ci farà immaginare? So. Che... un lieve sarcasmo sembra esserci già nell'aria, perché non so se Robertino effettivamente toglieva i ricchi per dare ai poveri precedentemente, quindi può darsi che ci fossero già così nell'aria, già si intuisse che il personaggio era dubbio. Vabbè, Robertino avrebbe allacciato i rapporti con i leghisti. Vabbè, Aurora, che dobbiamo fare? Individuate questo Robertino e statevene alla larga, okay. No? Il discorso è che è difficile, però, perché appunto ci sono un sacco di persone che sono state intercettate e che hanno parlato con tutto l'entourage della CPL. Oggi c'è anche un articolo sul Fatto Quotidiano su Luca Lotti, che effettivamente è molto amico di Ferrandino, il sindaco di Ischia, del lui infatti è finito anche lui tra i nomi appunto, cioè. Quindi anche lì bisogna capire, pure lì due pesi due misure, no? Cioè, se questi qui facevano favori e quindi si sapeva ed era latentemente, no? Era un non detto, ma sapevano tutti che serviva ad ottenere dei favori da questi qui. Che c'è Aurora? Massimo Sanquamo, ti ricordi 10 milioni di euro in valigette date alla Lega per vendere gli aerei di Gustavsland? Cos'è? In India? E non è vero. Ma siamo qua ancora è così. Non hanno neanche chiesto scusa. Quanti titoloni hanno fatto? Ma le hanno consegnate a te quei 10 milioni? No. quindi va bene così. Fango sulla Lega, passerà anche questo fango. Allora, però, qua intanto il vostro amico Matteo Renzi, sapete che vi ho innervosite subito. Il vostro amico Matteo Renzi sta per mettere a segno quella che molti dicevano era una questione per prendere una nuova poltrona, insomma. Cioè Del Rio sostituirà Lupi, questo domani. Ecco, però vorrei chiedervi questa cosa. Oggi leggo questo titolo che secondo me tutti i discorsi dei femministi, delle vetero femministe, guardate i titoli di oggi e un sottosegretario donna, una donna, cioè vuole una donna, questo è il titolo sui giornali, non è che vuole una donna. No, perché... ma è sempre i panda, sì. Esatto, siete un po' dei panda. Certo, poi fa molta propaganda, come propaganda elettorale per prendere consensi, questa cosa del volere le donne attecchisce ancora molto, no? Prendo un po' i casi umani, prendo i panda, prendo una donna come sottosegretario. Hai capito che addirittura una donna come sottosegretario? Una donna, tu Aurora? Che ne pensi? Ma si prende un po' chi vuole. No, dai, non fare così. No, nel senso, quello che vuole. No, sì, cos'è? Una delle NCD vuole, ne pare? Sì, perché chiaramente Lupi era ovvio. dell'NCD, però lui mette... Una donna sottosegretario vuole. Sottosegretario, sì, forse... La Manzione si vocifera. Esatto, la presidenza del Consiglio. Pare Antonella Manzione, ex capo dei vigili a Firenze, ora portata all'ufficio legislativo di Palazzo Chigi da Firenze e ora forse messa sottosegretario al posto di Del Rio. Quello che ci preoccupa è che Del Rio era uno degli ultimi che aveva una testa autonoma, se ne va anche Del Rio. Ma se ne va, fa il ministro delle infrastrutture. Lo so, però da sottosegretario, capito, era tutte le varie conferenze con le slider. Graziano, mi dici? Graziano, mi passi? Adesso anche Graziano. Era anche grazie, Graziano, grazie. Vabbè, sì, va bene, va bene. No, va bene. Grazie, Graziano, grazie. No, oh, grazie, gli era vicinissimo all'inizio, poi hanno bozzato e lo manda alle infrastrutture. Ho capito, ma mica lo manda dietro la lavagna, lo gli capito, fa fare il ministro. No, non è più, non è più, non fa il naif, non faccio il naif, va bene. Va bene. Lo sappiamo. È il momento Salvini. Salvini, oggi ho aperto per sbaglio il coso dove c'erano i panni sporchi. Trac, mi è uscito Salvini alle 5 del mattino. E non niente. È così. È così, è così, spunta dappertutto. D'altronde è un soprammobile, come ha detto Renzi. Ti piace soprammobile, Aurora Lussana, come definizione? Vabbè, comunque senti Salvini cosa pensa del soprammobile. Il commerciante ambulante che ho incontrato a Parma, che si alza alle 4 della mattina per vendere i maglioncini non made in China, alla fine del mese dovrebbe pagare allo Stato il 72% del suo guadagno, è un furto. E se non paga tutto, fa bene a non pagare. Dov'era tutto? Qua di martedì? Fa bene a non pagare. Questi tutto. Sono i suoi cavalli di battaglia, Aurora. Sono i suoi cavalli di battaglia. Poi ancora sulle cooperative, senti Salvini, il tuo capo, il tuo boss. Inchinati, inchinati, inchinati. Fare una commissione di inchiesta parlamentare sul mondo delle cooperative, che spesso e volentieri sono false cooperative che sfruttano i lavoratori per non pagare le tasse. Questo ha detto. Sì, la rete delle coop, lo so. Lo sa, vedi, un po' più inchinata, un po' più... C'ha ragione. D'altronde Veronica, se c'ha ragione Salvini. È un giorno di dolore per Salvini, perché Toti in Liguria a Capochino ce lo siamo dovuti prendere. Ah sì sì sì sì, è vero, ha scalzato il leghista candidato e ci sarà Toti, queste sono, vedi, dopo Tosi Toti, chi di Tosi perisce, esatto. Ferisce di Toti perisce. Tosi e Toti, capito Veronica come ti accoltella, cara Aurora Lussana. No, mai, Aurora mai, No, abbiamo fatto l'accordo, Edoardo Rixi secondo me era un candidato eccellente, ma va bene. Ma va bene così. Ma va bene anche Toti. Va bene così. Con quello, guarda. Ti va bene tutto oggi, sei veramente in settimana santa, ti va bene tutto, Renzi metta chi l'ho rivalutato, perché ho sentito ieri il duo lì, Bondi Repetti, quei due lì che gliene dicevano di ogni cosa, allora l'ho rivalutata alla grande. Il duo Bondi Repetti sembra Bondi, un po' come un Gianni, 883, un no? Gianni Pinotto, sembra un po'. No, Repetto degli 883 c'era, Bondi e Mazzazzali. Esatto. Comunque, sì, ci sono dei messaggi. C'è Franco, tassista, che fa presente ad Aurora che post matrimonium, amore orgiastico, te saluti Ninetta. Ma questa storia dell'amore orgiastico poi me la dovrete spiegare. Te la spiega dopo il traffico. Aurora Lussana ama. Te lo spiega meglio lei, perché c'entra tutto con l'amigdala, il cervello, l'amore barbaro, primitivo, primordiale, orgiastico. Tra poco. 24 mattino. Sì, buongiorno. Volevo fare una domanda a Alessandro Mela. Ma per quale motivo far passare De Luca come un grande? Cioè, De Luca è un grande quando dice queste cose qua. Cioè, perché dargli questa valenza così positiva? Milan, certo che te coscienza ecologica non ce l'hai, e meno male che c'è una gattina, e allora ti occupi egoisticamente solo di quella e degli altri animali te ne freghi, dell'ambiente, dei forestali, ciao. Alessandro Milan, ciao Salvatore da Catania. Ascolta, sono stanco, non ce la faccio più, per ogni euro che io pago di tasse loro se ne rubano due, ma si può andare avanti così? Tu pensa quanto saremmo noi fortunati se i parlamentari durante le riunioni del Parlamento leggessero Topolino anziché pensare ai cazzacci loro. Ale, viva la vacazio! Ieri sera ho visto il tuo fratello gemello sulla 7, la prima volta che lo guardo non lo guarderò più. L'ho guardata perché c'era Aurora Lussana, una gran bella ragazza, complimenti, molto battagliera. Credo che alle prossime elezioni prenderà il mio voto e di qualche un altro. Arrivederci e buona giornata, professorino. Grazie per il professorino. Ma voto di chi? Cioè, Aurora non sa, l'amica si candida, non lo so. Carino, carino. Che... No, ma che? No, no, piuttosto vado a fare il vino, ragazzi. Però si guadagna qua, di più. Devo dire, io vorrei invitare, tanto l'abbiamo detto anche l'altra volta, se volete prima googlare, sapete cosa vuol dire Google? Andate su Google, immagini, perché Aurora Lussana ha tanti gruppi ormai, mentre Veronica Gentili che è con noi da poco, però sì, va sostenuta la ragazza, va sostenuta. Le new entry poverine così sono un po' certo, al margine, effettivamente, no? Quindi fate Veronica Gentili su Google, immagini, guardate, fate un'idea, poi la sentite qui e poi datevi anche mandateci il vostro messaggio in segreteria. Però Aurora devo rispondere, ma non è che è un grande De Luca, ho fatto sentire ieri il modo in cui risponde a tutte le critiche da uno che combatte in maniera molto feroce, ecco, e quindi mi piace il modo in cui parla così da teatro. Ecco, una pensatrice, cosa pensa di De Luca? Il modo in cui parla è impostato, De Luca? Te lo faccio sentire. Senti, Veronica, senti. Hanno chiesto il passo indietro. Per la verità mi hanno chiesto tutto il contrario. La parola d'ordine del colloquio era avanti Savoia. Se siete obamiani, forward. Avanti. Cioè, capisci che uno normale non parla così. Da questo punto di vista, però, chapeau, perché ha proprio impostato tutto su quello ed è cabaret perpetuo, quindi da questo punto di vista, e poi comunque è campano, quindi io ho un'adorazione assoluta per i campani che c'hanno proprio, ce l'hanno nel sangue questa roba, quindi questo voleva dire. Aurora Lussana, vuoi spiegare alla signorina Veronica Gentili cos'è la questione? Signorina è un termine deplorevole, dopo 17 anni tutte le donne sono signore, questo è vero, quindi lei è una signora, non è mica una signorina. Aurora, mi hai sistemato così, va bene. Allora, orgiastico. Bello, sì, no, è quello a cui ciascun uomo, ciascuna donna tende, perché insomma ritorna alla nostra dimensione ancestrale che la società contemporanea vuole rimuovere. È il disagio della società in cui viviamo che ci spinge a ritornare all'amore orgiastico, primitivo, sì, è la nostra dimensione psicosessuale. Sì, capito, bello. Veronica, bello. No, no, ma ciò a cui tutti tendiamo. Aspettavo di più, volevo capire meglio. La congiunzione col tutto, no? Coniugarci col tutto. In realtà, Veronica, io traduco, voleva sapere se tu lo pratichi anche l'amore orgiastico, nel senso. Non mi sono ancora imbattuta, però uno non mette limiti alla provvidenza. No, diceva da Aurora, però va bene, poi ma glielo auguriamo a tutti, nel senso. Sì, no, ma tu, gli ascoltatori poi dicono questo elogio dell'amore orgiastico, ma poi. Aurora, sei tu che ce lo devi dire se lo pratichi. Scusa, a parte che può essere con un solo uomo, una sola donna, con un esercito l'amore orgiastico, nel senso, è proprio l'approccio che tu hai, il metodo. Con cui ti confronti con la tua dimensione. Lo vedi che allora però è una cosa va spiegata nel dettaglio. Certo, è filosofica, non è mica. No, ho capito che c'è dietro tutto un pensiero complesso, non è mica una cosa così grossolana. Ragazzi, come sono la due anni che c'è. Come la differenza fra verginità e castità, no? Sì, allora, tu puoi essere stata sottoposta alla violenza di 1000 persone, di 1000 uomini, ma puoi rimanere cassa mentalmente, no? C'è una dimensione di cassità. Allo stesso modo l'amore orgiastico, un approccio mentale, intellettuale. Ma anche con un solo uomo o una sola donna. Quindi è legato ad un senso fusionale, appunto, capite qua. Questa panico è 24... qua diverse derive semantiche. Questa è 24 mattino. È una dimensione quasi da sciamano che c'è in tutti noi, che va riscoperta. No, vabbè ragazzi, ma è straordinario. Molto spirituale questo approccio. Andrei a bere un caffè e vi farei parlare tra di voi. Io sono un po' sciamano. Senti, però ti voglio fare una domanda. A te piace Jovanotti? Il link tra queste due cose non l'abbiamo capito. No, non c'è nessun link. Volevo sorprendere, ma ti piace Jovanotti, cara? No, io so che uno, insomma, degli intellettuali di riferimento di Matteo Renzi. Eccola là. Sentite Jovanotti. Io non sono un sostenitore, non mi piace il suo orizzonte, no? Nel senso che il mio orizzonte e il suo orizzonte sono completamente diversi. A me piacciono le società multiculturali, per me l'orizzonte, il punto a cui tendere è proprio la società multiculturale. Parlava di Salvini, capito? società multiculturale, concetti che faticano più a entrare nella testa più dell'amore panico, ad Aurora Lussana. Scommetto che vive in un casale meraviglioso sperduto nella Toscana, tipo Cortona, quei posti lì stupendi, no? Vada un po' in periferia qua a Milano a vedere se la pensa lo stesso. Venga modo a vivere vicino a me, con me, vicino a via Padova. Conosci via Padova, sì, Veronica, sì. Gentili a Milano? Sì, la conosco. Ebbene sì. Ebbene sì, ecco, io abito, così, abito lì vicino. Dal loro casale in Toscana sono tutti per la società multietnica. Dai, Veronica, dille qualcosa. In realtà è difficile perché adesso dovremmo discutere. A me Aurora mi è simpatica, quindi non so. Ma no, discuti, ma dille quello che vuoi, dille ciò che pensi. Se... Io sono proprio agli antipodi su tutti i fronti da questo punto di vista. Penso che è una ricchezza, quindi... Sai che ricchezza, sai che risorse, va. Vedi, ma difendiamo un po' nativi, va. Difendi i nativi, ma, Veronica. Guarda che già qualitativamente parlando tra stranieri e nativi non è per niente detto che i nativi siano migliori, basta farsi un giro. No, a livello estetico? Anche a livello estetico, al di là del livello estetico, no, dico in generale, insomma, se uno va in giro per i quartieri, per esempio di Roma, in cui ci sono tantissimi stranieri, ne ho fatti tanti quest'anno, le dirette, varie cose, insomma... Ma il problema non è lo straniero in sé, è il modello che si sta proponendo, che è quello di far saltare la nostra coesione sociale, che ovviamente salta quando c'è un'immigrazione incontrollata. Ecco. Dov'è che funziona la società multietnica? Dove? Neanche l'utopia di Tomas Moro ci dava la società multietnica. Eccola. Eravamo nella settimana pasquale comunque, Aurora Lussana, nella settimana santa. Sei partita buona e poi mi arrivi così lunga, mi arrivi sugli immigrati. Ma questo falso mito della società, ma ditemi dove funziona, dove? Ecco, vabbè, io vi devo lasciare qui. Comunque funziona, purtroppo. Questa è la prossima puntata. La prossima puntata, settimana prossima no, perché io vado in ferie, Vado, me ne vo. Però intanto vi abbraccio, una buona Pasqua, Aurora Lussana e Veronica Gentili, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Allora siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:16 minuti, sarò qui oggi, siamo qui anche domani, andremo in onda fino alle 9:30 domani con 24 Mattino. E invece settimana prossima sarò in ferie, va bene? Lunedì, vabbè, Pasquetta non saremo proprio in onda e poi da martedì ci saranno migliorati fino a venerdì prossimo. Allora, 7:16 minuti, chi avremo ospite oggi alle 8:15? Avremo ospite il marciatore Alex Schwatzer, trovato positivo al doping poco prima delle Olimpiadi di Londra. Ricordate il suo dramma umano e sportivo. Ora Alex Schwatzer vuole ripartire. Lo fa affidandosi al guru dell'antidoping, il professor Sandro Donati, che da anni si batte per uno sport pulito. Saranno ospiti da noi dalle 8:15 Alex Schwatzer e il professor Sandro Donati per capire se è solo un tentativo di ricostituire una sorta di verginità sportiva o se davvero Alex Schwatzer vuole ripresentarsi al grande pubblico e come lo farà, insomma, dopo questa certamente vergogna del doping di 4 anni fa. Avremo ospite anche Guido Veneziani. Chi è? È il nuovo editore che vuole rilanciare l'Unità, pare dal 25 aprile, ma gli chiederemo se questa è la data in cui ricomparirà l'Unità in edicola. Intanto andiamo a leggere per l'appunto i giornali. In questo giovedì 2 aprile i titoli intanto, molti dedicati alla prima approvazione della legge anticorruzione. Corruzione sia la riforma stretta sul falso in bilancio, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Messaggero: falso in bilancio, torna al reato, intercettazioni, niente decreto. Per Repubblica: corruzione, scatta la linea dura

Allora, Alex, intanto come minimo lei verrà colto da scetticismo e dubbi, lo sa. Perché fa tutto questo? Ma faccio tutto questo innanzitutto perché grazie al professor Donati io ho questa possibilità unica, o diciamo possibilità che forse prima di me nessuno ha avuto, anche perché forse non aveva la volontà di farlo, di fare una serie di cose a livello proprio di antidoping, di controlli che fino adesso nessuno ha fatto, quindi io spero sì che ci sarà sempre qualche dubbioso, però che ci sarà anche chi magari riflette su quello che noi adesso faremo e che già facciamo, e quindi sarà un po' più diciamo libero di valutarmi quello che è stato, che ho fatto nel passato, ma quello che faccio adesso. Anche perché lei ha detto: io lo farò e mi farò controllare 24 ore su 24, cioè dimostrerò che sono un campione. E prima prima che succedesse quello che è successo, ero un campione pulito. Sì, beh, diciamo quello delle 24 ore per me è proprio è una cosa scontata, perché se si vuole fare questa cosa seriamente, questo è il primo passo che ci deve essere. Come pensa che le chiedo questo, come pensa che l'accoglieranno nell'ambiente i compagni? Non benissimo, io credo. No, sicuramente no, anche perché questo è un percorso lungo, insomma, dove la fiducia e il rispetto bisognerà conquistarselo passo per passo, quindi ci vorranno non una sola gara, ma tante gare, tanti allenamenti e tanti messaggi diciamo positivi, no? E quindi ma questo non è un problema per me, io sono molto orgoglioso che posso fare questo ritorno veramente unico, e ringrazio il professor Donati perché lui questo me lo consente, e questo infatti lo chiederemo tra poco. Le chiedo questo, Schwarz, io so che in questi anni lei è stato anche a Salisburgo a studiare, è capitato questo, lei l'ha raccontato in un'intervista a Repubblica: prima lezione il docente parla di doping e mostra due foto, una di Lance Armstrong e la seconda foto è la sua. Ci può raccontare cosa ha provato in quel momento? Sì, non dovevo più presentarmi, nel senso che era proprio la prima lezione, tutti si dovevano presentare, io mi sono alzato e ho detto: ecco, io sono questo qua. quindi sì, io ho fatto questo sbaglio e insomma sono responsabile del mio sbaglio, non mi sono mai nascosto, no? E quindi certo non è un momento piacevole, però questo è quello che ho fatto e quindi è giusto anche che mi prendo le mie responsabilità per questo. Professor Donati, sa che anche lei gioca molto e ci avrà pensato mille volte della propria immagine, che vale a dire un'immagine di un uomo che da decenni combatte proprio il doping, non solo nello sport, il doping in generale. Perché lo ha fatto? Lo chiedo anche a lei, perché lo fa? Lo faccio per mettere in movimento una situazione che è cristallizzata e schematizzata. La vita scorre in continuazione e le situazioni possono cambiare. Io prima di accettare ho valutato, ho studiato tutta la sua carriera passata, mi sono documentato, ho raccolto tutti i suoi allenamenti dal 2005 ad oggi, tutte le informazioni che lo riguardavano, gli ho posto centinaia e centinaia di domande, e ho soppesato le sue risposte e poi ho preso in esame il fatto che andavo dai magistrati e ha collaborato, ha scelto un allenatore che certamente non è tra quelli catalogabili come distratti, che non si accorgono mai di nulla, dopodiché ha fatto questa offerta di rinunciare alla finestra oraria, significa che si il controllo 24 ore su 24, esattamente, e inoltre mi ha chiesto lui stesso di organizzare un sistema aggiuntivo evidentemente rispetto ai controlli antidoping, che fosse di garanzia, quindi, mediante dei controlli ematici ed ematochimici in generale, che saranno svolti poi dal reparto di ematologia dell'ospedale San Giovanni, e quindi a questo punto io mi sono trovato chiaramente di fronte ad una persona che che ci vuole riprovare, insomma, che vuole una, che vuole una seconda possibilità. Esattamente. Ma lei ha anche raccontato, prima di accettare, ho fatto ovviamente ad Alex Schwarzer centinaia di domande, oltre alle informazioni che ci ha detto ha preso. Per esempio, che domanda, la prima volta che vi siete visti o vi siete parlati, che domanda gli ha fatto? Ma non c'è stata una domanda singola, ripeto, tantissime fatte con metodo, lui lo sa benissimo perché abbiamo parlato credo una quindicina di ore, quindi può immaginare che era l'insieme delle domande che si percorrevano e quindi io ne ho valutato la coerenza, l'affidabilità, ripeto, e poi soprattutto mi sono reso conto di una cosa. L'atleta è forte, molto forte. Su questo non c'è dubbio, non avrebbe potuto vincere quello che ha vinto prima che succedesse questo fattaccio. Certo, allora aggiungo, è ancora integro, cioè ancora in questo momento in grado. Ecco, quindi io ho valutato anche che tutto questo periodo del doping che ha abbracciato diciamo la fine del 2011 e poi il 2012 coincideva con un calo nettissimo della sua prestazione, quindi paradossalmente il doping si è andato ad abbinare ad un periodo di capacità di prestazione molto bassa, quindi una strana cosa nella quale probabilmente a questo ragazzo sono mancati i giusti appoggi, i punti di riferimento. Ma un po' sarà certamente anche così. Io lei, Alex Schwarzer, si è chiesto mille volte, se lo sarà chiesto nella mente, quando è stato il momento in cui gli è scattata la molla di dire beh, devo doparmi, perché lei in varie interviste ha detto non ce la potevo più, non ne potevo più di vedere attorno a me persone che vincevano, mi battevano e probabilmente erano dopate. Ma che cosa gli è scattato un giorno per dire devo farlo anch'io? Ma ci sono stati più aspetti, secondo me, questa decisione. Adesso posso dire che forse dentro di me il primo motivo era perché io non mi sentivo più io, più bene, no? Non è stato tanto, è stato in un primo, cioè io pensavo sempre perché lo fanno, qualcuno lo fa e forse anche dei vantaggi, ma adesso dico che tutto è partito perché io non mi sentivo più bene, perché arrivavo dal 2011 dove ho fatto tanta fatica, dove ero più volte al punto di voler smettere con la mia carriera. Perché lei ha detto nel 2008, dopo la vittoria a Pechino, un ragazzo di 24 anni come lei avrebbe avuto diritto a divertirsi, a darsi la pazza gioia. Invece lei cosa faceva dal giorno dopo la medaglia? 50-60 km al giorno? Sì, no, vabbè, io sono purtroppo un tipo che fa fatica a fare una cosa in modo normale, quindi io se faccio l'atleta lo faccio veramente 24 ore al giorno, voglio fare tutto in modo perfetto. E quindi io dopo l'Olimpiadi di Pechino non volevo fare l'errore che qualcuno prima di me ha fatto, che ha vinto abbastanza da giovane e poi si è un po' perso. Quindi io già con la mia voglia di fare, che già era tanta prima, voleva rimanere ai livelli, voleva rimanere... Sì, che però è molto difficile, perché tu se fai uno sport diciamo abbastanza povero come il mio, quando tu vinci l'Olimpiadi, il giorno dopo le cose un pochettino cambiano, tu hai più impegni e più cose da fare, e questo... E poi è difficile coincidere, certo, con gli allenamenti. Sa insomma. Però, Alex, che su di lei pende una squalifica, come ben sa, fino ad aprile 2016. Lei confida che venga ridotta in modo da permettergli di puntare, addirittura permettergli di puntare a Rio de Janeiro alle Olimpiadi? Sì, io spero sicuramente in questo, però voglio anche dire che io... Per me sarà importante ritornare alle gare in generale, perché noi abbiamo questa fortuna, diciamo, che abbiamo una distanza. c'è il cellulare che è andato via. Adesso recuperiamo la linea. Donati, le chiedo la stessa cosa: è Rio de Janeiro ciò a cui che si punta, oppure è un'operazione che va al di là delle Olimpiadi, al di là della singola gara? Guardi, lo ha detto Don Ciotti in un bellissimo messaggio che ha rilasciato ieri, va al di là. Qui si tratta di recuperare una persona, far recuperare ad una persona la sua dignità, la sua credibilità. E io francamente mi sento sì garante della sua credibilità, ma mi sento anche in qualche maniera colui che sorveglia la sua credibilità a nome degli atleti puliti, che ogni volta si vedono tornare alle gare un atleta magari che ha fatto il doping e hanno il sospetto più che legittimo che ci sia qualcosa, certo. Ecco, ma è sicuramente una battaglia più importante della singola gara. Abbiamo ripristinato la linea con Alex Schwarzer. Ecco, ci diceva spera in una riduzione, ma non è l'importante Rio. Se non sarà Rio, sarà qualche altra gara. Lei quanti anni pensa di poter marciare ancora, Schwarzer, a livello competitivo, ovviamente? Ma io penso che qualche anno ancora sicuramente potrò fare ad alto livello, poi io non so quello che sarà fra 5-6 anni, però io penso che sì, qualche anno ad alto livello sicuramente lo farò. Senta, io, a me non interessa nulla, questa non è una trasmissione di sport, tantemeno di gossip, delle sue vicende personali con Carolina Kostner sono vicende vostre, però la vicenda pubblica è che la sua ex fidanzata è stata squalificata 1 anno e 4 mesi di fatto per averla coperta. Allora, le chiedo questo. Lei, nei confronti di Carolina Kostner, come si sente? Sicuramente non bene, è chiaro. Io spero che adesso magari la sua squalifica verrà ridotta, perché lei adesso c'ha il processo poi a Losanna davanti al TAS, quindi io spero che questa vicenda si concluda innanzitutto presto e poi magari in modo positivo per lei. Comunque non si sente un po' in colpa, ecco. Beh, certo, però insomma in quel momento lì io quello che facevo era sbagliato, no? Quindi mi dispiace che ci è capitata in mezzo anche lei, che in questa cosa non c'entra. Non c'entra nulla, perché davvero non aveva mai parlato con lei, non aveva lei mai avuto sospetti di queste cose. Esatto. Sa che c'è anche, e so che questa cosa la fa molto arrabbiare, chi mette in dubbio la sua carriera precedente a quello che è successo, e quindi anche l'oro di Pechino, che è l'oro, il momento più magico della sua carriera. Lei come risponde a questi detrattori? Risponderò che le prossime gare che adesso farò ci sarà una risposta a tutto questo, ecco, questo... Di questo sono abbastanza tranquillo, nel senso che purtroppo è quello che cioè io non mi sono dopato, posso dire che le mie prove al controllo antidoping sono a posto, posso dire che anche come valori ematici non sono sospetto, diciamo. Però una risposta precisa sarà con questo progetto, dove poi nessuno potrà dubitare che io sono dopato o no, perché non lo so, perché è impossibile, e ci sarà una risposta proprio sulla strada. In tutta questa vicenda lei si sente di aver tradito più gli altri, più se stesso, più la sua famiglia, più i tifosi, più gli italiani? Sa che molti sono molto arrabbiati, vorrebbero una squalifica a vita, vorrebbero non darle una nuova possibilità. Io capisco che ci sono, c'è chi è contro la seconda chance, però voglio anche dire che io veramente ritorno, il mio ritorno è un ritorno molto serio, perché come ha detto il professor Donati prima, io potevo tornare anche molto più facilmente, diciamo, no? Purtroppo in questi 2 anni si è parlato molto del mio caso. Io non sono il primo dopato, non sarò l'ultimo dopato, e quindi io prego di avere un po' di pazienza, chiedo un po' di pazienza alle persone, di dare una nuova chance, insomma, di sì, dare perché una questo progetto adesso è nato e sarà il tempo a essere a nostro favore, perché pian piano sono sicuro che conquisteremo anche la fiducia di qualcuno che in questo momento è scettico. Ho ancora due domande, una per il professor Donati ed è proprio questa. Professore, anche lei spesso in passato diceva le persone che vengono colpite, vengono trovate positive, dovrebbero essere radiate. Perché invece secondo lei in questo è importante dare una seconda possibilità in questo progetto ad Alex Schwarzer e a tutti voi? Ma guardi, io in tutti questi tanti anni di lotta ho sempre spiegato che l'atleta è l'anello debole della catena e che intorno c'è un sistema che ha un interesse per i suoi risultati tale per cui è anche pronto a coprire o a facilitare il doping. Questo è un punto che ritrovo esattamente nella storia di Schwarzer, abbandonato a se stesso in tutto il periodo preolimpico. Aveva frequentato un medico non chiaro e la federazione non era mai intervenuta, nessuno lo aveva in qualche maniera convocato per chiedergli conto, lo hanno mandato in Germania per un mese prima delle Olimpiadi, ma non esiste che una preda di alto livello venga lasciato solo. Ecco, allora se consideriamo tutte queste cose allora capiamo bene il rapporto che c'è tra un atleta e un sistema. Cioè il sistema più quasi più responsabile dell'atleta in sé, che è l'anello debole, come lei dice. Ma è chiaro, e quindi le analisi del pubblico a volte sono superficiali, io le capisco perché vedono solo l'atleta e non sanno nulla del sistema, però dico informatevi, e se non siete in grado di capire, vabbè, allora date dei giudizi così evidenti. No, ma nel concludere, Schwarzer, dopo la squalifica anche di Carolina Kostner, vi siete chiariti? Cioè c'è stato un contatto, oppure non è arrabbiata, è comprensiva oppure no Carolina nei suoi confronti? No, come ho già detto più volte, la cosa è ancora abbastanza fresca, perché lei è stata squalificata a gennaio. E adesso siamo ai primi di aprile, quindi non è che è una cosa che si risolve in poche settimane, ci vorrà del tempo e penso che con pazienza poi ci chiariremo un giorno, ecco. Io intanto le faccio tanti in bocca al lupo, nonostante uno la possa pensare come vuole, è un, come ho detto io, un ritorno che certamente mostra una dose massiccia di coraggio anche per esporsi pubblicamente a quelle che possono essere le critiche che ci saranno e ci sono. Grazie Alex Schwarzer, in bocca al lupo, grazie al professor Sandro Donati, la pubblicità, poi avremo con noi il nuovo editore dell'Unità, l'Unità torna in edicola, tra poco. Allora, dopo aver avuto Alex Schwarzer con il professor Donati, che cercano una resurrezione sportiva dopo l'ignominia del doping, dopo però aver vinto prima l'oro di Pechino, sono tantissimi messaggi arrivati, soprattutto sì, di critica, di sdegno, lo so, siamo fatti così, ci piace... noi italiani piace molto anche infierire sulle vicissitudini degli altri, è un grande classico. Io in maniera molto laica dico vediamo, cosa dobbiamo fare? Sparare a una persona, crocifiggerla? Alex Schwarzer prova a ritornare alle gare, vedremo cosa succederà. Intanto, dopo il traffico, ma intanto lo saluto, è già con noi, avremo un ospite che mi incuriosisce molto, si tratta di un editore, si tratta di Guido Veneziani, che saluto, buongiorno dottor Veneziani, eccoci qua. Buongiorno dottore, come stai? Allora, bene, Guido Veneziani, editore, è conosciuta per testate come Vero, Stop, Miracoli, poi mi corregga lei, ce ne saranno altre, no. Vero TV, Top, certo. Confessioni di Donna, eccetera, ma... è anche adesso il nuovo editore dell'Unità che risorgerà, no? L'Unità che risorgerà. Allora Veneziani, ho tante domande da farle, facciamo così, diamo le informazioni sul traffico, 40 secondi e poi sono da lei per capire quest'Unità quando ritornerà in edicola e come soprattutto. E allora Guido Veneziani è l'editore che si lancia in questa sfida per riportare in edicola l'Unità. C'è una data intanto, Veneziani, una data precisa, si parla del 25 aprile oppure no? Il 25 aprile l'ho letto, l'abbiamo letto tutti sui giornali, noi stiamo lavorando molto, insomma il 25 aprile è molto vicino. Ad oggi non abbiamo ancora da comunicare il nome del direttore, che è fondamentale, diciamo che potrebbe anche essere il 25 aprile. Si parte da insomma, lì. Sarebbe una data simbolica. Infatti il simbolo per l'unità, esatto. Il simbolo è fondamentale, forse per quello, quale data più simbolica, anche perché il 1 maggio i giornali non sono in edicola e quindi esatto. Sarebbe un'altra data simbolica, però se non è il 25 aprile di che termini parliamo? Sarà comunque sicura, se non dovessimo riuscire a portare il giornale in edicola il 25 aprile sarebbe comunque in edicola nei primi 10 giorni nel mese di maggio, insomma. I primi 10 giorni ormai ci siamo, direi. Sì. Ma con chi? Con i giornalisti che erano? Anche con i giornalisti, certo, con l'accordo sindacale che abbiamo fatto col CDR abbiamo concordato 25 giornalisti, circa 5 poligrafici, abbiamo già una nostra struttura a Roma, a Milano ovviamente ci sono gli uffici della Guida Veneziana Editore, il progetto grafico è realizzato, i giornalisti si potranno mettere al lavoro tra pochissimo, direi che insomma siamo già molto molto avanti. Manca il direttore però, che è un aspetto fondamentale, come dire. Sa che noi qua un po' giocando un po' no, ma abbiamo lanciato, perché spesso nostra amica e nostra ospite Chiara Geloni, gliela suggerisco, posso fare una raccomandazione in diretta? Chiara Geloni la conosce? Bene, non amo le raccomandazioni, però voglio dire, visto che me la fai in diretta, vediamo così. No, ma abbiamo avuto giusto un CDA importante ieri perché comunque questa è una scelta comune che io faccio e farò evidentemente con gli altri soci. Io ho fatto una rosa di nomi abbastanza ristretta e nelle prossime ore insomma scioglieremo la riserva. Quanti sono i nomi? 3, 4, 5? Ma pochi, 3. Stiamo parlando di tre direttori potenziali. Io sono sicuro che nelle prossime ore verrà fuori il nome così. Sa che però io adesso la devo scavare e devo capirlo chi è questo nome in anticipo. Sì, tanto non ma lei ha visto, perché credo abbia letto che non sono scalabile da questo punto di vista. Sarebbe giusto, insomma. no ma ci mancherebbe. Mi dica solo, so che ieri ha detto se uomo o donna si orienta, ma sa che va molto anche sì, è una cosa di 3 uomini che abbiamo visto, con i quali abbiamo parlato, che secondo me sono in linea con l'idea editoriale che abbiamo. Comunque di un giornale, l'Unità è un giornale importante a prescindere, no? Sì. Un giornale storico, un brand nazionale, e poi la motivazione forte che mi ha convinto a lanciarmi in questa avventura, lo conoscono a Palermo come a Bolzano, a differenza di tanti altri ovviamente quotidiani che abbiamo. Beh, l'Unità è un giornale storico, esatto, si sa. Però lei ha detto che non sente Renzi, perché i rapporti, so che in tutto questo ha lavorato anche il tesoriere del PD Bonifazzi, perché voglio dire, è stato tesoriere del PD ad essere proattivo per salvare e riportare in edicola. E quindi i suoi rapporti con Renzi come sono? Ma io, come ho già dichiarato al giornale, Renzi l'ho conosciuto a Leopolda, gli ho parlato, credo, o meglio, l'ho ascoltato, credo, per 4 minuti. E basta, non ho contatti con lui, li avrò, immagino, spero, voglio dire, sono curioso di sapere cosa pensa del nostro prodotto, però a parte questo, credo che abbia delle vicende importanti di cui occuparsi. Sì. Beh, però dice l'ho ascoltato 4 minuti perché fa poco interloquire, mi sembrava di aver colto questa... Cioè si ascolta, no, Renzi, non è che si... È più importante quello che dice lui, quello che dico io. Ecco, però ha dichiarato... Certo, però lei ha dichiarato di aver votato il Movimento 5 Stelle, questo al Fatto Quotidiano, se non sbaglio, l'ho letto 2 giorni fa, alle ultime elezioni. Sì, assolutamente. E ho dichiarato di averlo votato e ho anche detto di averlo votato con un altro 25% di italiani. È vero, insomma, non eravamo in pochi. D'altra parte dalle primarie, prima delle elezioni politiche, era uscito come segretario del partito un'altra personalità, Bersani, che non era Renzi, quindi in quel caso quindi lei dice adesso però è più renziano, bersaniano no, quindi adesso mi piace il modo di governare di Renzi. Ah, adesso le piace Renzi, perché è un modo deciso, un modo di chi mostra di voler fare le cose? Sì, assolutamente, ma più che mostra, mi sembra che lo stia anche facendo molto velocemente, che è una delle cose di cui questo paese ha bisogno. Io non mi occupo molto di politica, faccio l'editore e l'imprenditore. Credo che tutti però in questo momento nel paese abbiano bisogno di qualcuno che fa tanto e velocemente. Qualcuno ha fatto notare, come se questa immagine stridesse, il fatto che lei appunto è editore di settimanali, comunque di riviste legate molto al gossip, alla vita di tutti i giorni, e poi l'editore di un giornale politicamente così impegnato e storicamente così importante come l'Unità. Lei ci vede qualcosa di contrasto tra le due vicende? No, il mio primo giornale, che è vero che è il secondo familiare in Italia, quindi voglio dire, noi siamo nati e facciamo soprattutto un familiare, dove il gossip è una componente di mille altre rubriche importanti che riguardano la società, la famiglia, le persone, i fatti di tutti i giorni. Il quotidiano in fondo è anche questo, ovviamente con una lente di ingrandimento, un'attenzione speciale la politica, cosa che i familiari hanno meno, però non devono essere così distanti, insomma. Non devono essere, ecco, qualcuno gli ha detto, ma cosa vuol dire che metterà del gossip nell'Unità, sporcherà, dice, nel senso, lei è l'editore, ma vorrebbe un giornale in cui si mischino anche le due cose? Ma se il gossip è lo scandalo, se per gossip intendiamo, voglio dire, lo scandalino, no? di figure del mondo dello spettacolo, magari anche no. Se il gossip è società, invece magari anche sì. Mi chiedono via SMS, e se una domanda intelligente: rimarrà la scritta "fondato da Antonio Gramsci" sotto la testata dell'Unità? Sì, ho visto che Serra si arrabbia, credo che continuano a farlo arrabbiare, rimarrà, anche perché il quotidiano è fondato da Gramsci, quindi non vedo perché. Poi io credo che sarebbe opportuno, no, prima vederlo questo quotidiano e poi decidere se è giusto che rimanga Gramsci, se lo dobbiamo togliere, spostare, ridurre, che ne so. Tra l'altro, ecco, no, errore mio, il primo maggio i giornali ci sono, è il 2 maggio, vedete che non ci sono, quindi le suggerisco anche questo, oltre a Chiara Giloni, però ha detto che tra i nomi sono uomini. Provi a ipotizzare il primo maggio, potrebbe essere, se non ce l'avate per il 25 aprile, sarebbe un'uscita importante, insomma, primo maggio. Intanto la ringrazio, Guido Veneziani, editore di varie testate, Vero, Stop, Miracoli, Vero Salute, Vero Cucina e ora anche dell'Unità. Con lei davvero chiudiamo questa puntata, domani siamo in onda qui fino alle 9.30 addirittura, e che dire, l'appuntamento allora è rinnovato a domani. Settimana prossima invece sono in ferie, sono in ferie, a domani. 24 mattino.